ancora le cose o hanno finito, Giuseppe, lo stavi tu? Ora, ora, ora. Ora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ciao, Cla, l'hai sentito? Non me l'hai fatta vedere, la radio finita, ho sempre questa. Sembra che funzioni adesso. Mi ha lasciato asciugare 24 ore. L'ho accesa poco fa. E adesso c'è lo squelci che è le partita immediatamente. Il frequenzimento non si muove più. Mi sembra che Vali stia andando. Ma questa qua è questa di telegiorno adesso, come mai non c'è il bip l'hai tolto? Oh, qua il bip non c'è mai stato perché gli hanno tagliato il transistor del bip. Infatti manca, non so come si chiama. C'è un transistor con un piedino, quindi quello del bip dovrebbe essere. Adesso c'è il bip però, quanto è già andato sotto me? Eia. Ma il bip c'è adesso? Allora non ho capito perché cazzo ha tagliato questo transistor questo. Forse per pompare di più, cosa cazzo ne so. Gli ha lasciato la gamba di mezzo, gli altre due gambette le ha tagliate. Vabbè, se c'è il bip già vabbè, in parte funzioni, aspetta. Guarda un po', ecco c'è. 1, 2, 3, 4. Sì, sì, che c'è. No, Antonio, c'è una modifica, lascialo così. Modificata quella radio. C'è il... è fatta così. Sì, lascialo il bip, lascia anche io, sto già lasciato un ecco. Ehi, cappa. E infatti quando ho visto questo transistor ho detto cazzo che è strano. La, in pratica è tagliato le due gambette e mi è venuto adesso in mente quella, la storia di quel, del transistor, di tagliare un transistor per pompare di più. Ma l'aveva detto Gigi Vulcano, l'aveva detto un periodo. Deve essere quella la modifica per uscire più forte del radio. Ma non so che modifica gli ha fatto. Non ho capito. Allora così no, ti preoccupare, stai andando benissimo. Sì, 9 più 20, radio 5 perfetta. Mi sembra che stia andando. Non mi dà problemi come l'altro giorno, cazzo. Un po' di cervello, un po' di tetto, tutto spariva la ricezione, spariva la portante. Andava a schiacciare, non ho... è come se mancava la tensione al relè. Vabbè, ho lavato tutto quanto col coso, la telerina, tutti quanti i cosi. Le salature le hanno fatte. Adesso vediamo, sto lasciando acceso. Così abbiamo stasera modulo con questo qua e vediamo se fa l'effetto. Se non fa l'effetto non è attiva, gli metto il coperchio sotto, sopra. E così poi Massimiliano lo ritirerà domani sera. No, sta andando bene, alla grande. Nessun problema, ma anch'io in questi giorni sto modulando il corsato perché era sempre fermo, ma sono messo davanti, fianco al 920 della IAES, intanto hanno la stessa, più o meno la stessa grandezza, un po' più grande il 920, ma comunque, con il microfono in tavola e sto andando con questo, esce bene? E la voglia che c'è bene. Guarda che cosa dice di brutto, sai questo Saturno cos'è? La piazza dall'alimentatore, cazzo. Perché se non stai attento quando ci metti le mani dentro, cazzo, tocchi la piazza e ti prendi la 220 di bigli. Dove vanno a metterci almeno qualche isolatore sotto la piazzina in modo da non toccarlo volontariamente, perché se dovessi per sbaglio usare cacciavite appoggiare lì, cazzo, poi se la senti. E allora gliel'hanno tolto, Antonio. Mio c'è la protezione della... c'è la retina sopra il coso, capito? Quella retina rigida che è attaccata ai da una parte ai due bulloni, poi gira e va attaccata all'altro ai due bulloni, capito? Allora gliel'hanno tolta. Il mio c'è la protezione del trasformatore. Sì, non il trasformatore, la piazzina dell'alimentazione, più che altro, capito? È messa in verticale, però ti trovi la parte dove sono messi tutti i contatti, tra l'altro vi danno parte nello chassis, vicino proprio a dove sono le, i cosi PLL, le medie frequenze, eccetera, eccetera. Se poco poco ti distrai, cazzo, con la mano, spocchi quella piastrina, ti becchi la corrente, ti becchi. Anche perché vabbè, qui hanno messo l'alimentatore quello grande, la 018 da 43 80 watt, dico di modello vecchio, ma già va bene, non è che ne ha poco di fica, mamma mia, c'è da perdersi quando sta con tutti quei fili di quell'alimentatore, perché ci sono varie tensioni della lampadina, c'è il frequenzimetro, il mettatore del frequenzimetro, di tutto, sono 6-7 fili, compresi quelli della 12 per alimentarlo. Io già l'ho visto, aperto, già l'ho visto, ma sono una bella radio, questa è una canonata, è nuova, nuova, spettacolare, una ricezione a volte lungo per il prezzo, cazzo. È più silenziosa del K, le 140 è, le 430 no, ma le 140 arriva a ZZ0, faccio una ricezione da farla veramente. Oh, già c'è una bella ricezione, già lo so. Quello che avevo prima io era di lusso, non prendeva splatter, nulla, era perfetto, QRM3, non di più, a volte scendeva anche a 1, silenziosa, non meglio delle cose, delle 140, la verità. Beh, io ce l'ho, quindi a volte accendo una, poi accendo l'altra. 140 c'ha molto più QRM, questa è molto più silenziosa, molto più tranquilla, poi il filtro che c'ha, quello NBNL, funziona perfettamente, inserito quello proprio non senti nessun fruscio, nulla, ma non me la vale veramente, per quello io non la voglio dare. La volevo, c'era un periodo, la volevo far fuori, tanto non la stavo usando, non me ne fregava niente, giusto per non tenere dentro l'armadio, investire quei soldi in qualche altra cosa, ma poi ho detto magari me lo avete fatto, no, mi si è venuta del culo, e me la sono tenuta, e in questi giorni sto muovendo sempre con questa, anche perché questa pompa è questa c'ha 100 watt. Sì, quella pompa sì, ce lo credo che pompa. Anche quello che avevo prima io, che è andato a Piero, c'era l'alimentatore proprio quello grande, switch, da 30 ampere, quindi figurati. Ci puoi pensare tranquillamente dentro uno di quei lineari che non c'ha pulsante, capito? C'ha solamente quello dell'accensione e boom. E poi c'è la computazione elettronica della M e la banda laterale, uno di quelli, mi sembra che il B, non è dicendo, il B come cazzo si chiamava, a transistor, l'avevo fatto modello, l'avevo fatto, poi è uscito con la MOSFET, lo stesso che c'era la computazione elettronica, anche uno di quelli andava bene, inserito dentro. Ci sta giusto o giusto ci sta? Io non ce l'ho 747 al MOSFET. Tra l'altro con i watt giusti, l'ingresso, mi facevano 4 watt o 5 watt se mi ricordo, una cosa del genere. E da quella potenza lì, capito? Va veramente bene. L'ultimo per la truppa. A voi, che c'è. Ieri sono fatto una passeggiata da lì, come sono fatto. Tanto che devo comprare, caricarmi il telefono, sono dovuto uscire e cazzo la cosa. Altri sbalzati. Allora sono passato da Nico e poi è passata Giovanna, ci hanno bevuto 3 birre e sono entrato poi a casa insieme a lei. Vabbè, sono uscito, andavo, cazzo, mi stavo sciogliendo in questa cameretta, figurati, se ne scendeva le gocce, cazzo, quando con la lente. noi, no, poi sotto mansarda così, c'è troppo caldo, qua si sta veramente bene, molto bene, dice la finestra aperta del carrello, entra una bella rietta fresca, perché di sole non mi tocca, capito? Si sta bene. Ah, si è andato di sera allora, o di mattina, perché di mattina c'è lui che non lavora, sabato mattina. Ah, sabato di sera, ieri sera. Era lì. Sono andato, mi sono bevuto due birre, poi una me l'ha invitata Giovanna quando è arrivata, dopodiché siamo andati via. Sono entrato verso le 10:30, qualcosa del genere. Poi non avevo neanche voglia di cenare. Quindi figura, la birra ti gonfia un po'. Poi invece stamattina mi sono alzato presto, mi sono mangiato mezzo chilo di sardine da solo e sono stato anche mezza pizza. E poi a causa Simona e Alicia mi ha fatto il pollo. Ho l'arrosto dentro la... ho fatto il forno che fa 28... da Epicasa, 28 litri, 54 euro me lo sono comprato. Ah, quelli davanti alle sedie, già funzionano bene. Ah, quelli funzionano bene, ce l'avrebbe io. Qua è tutto un altro sistema, quello incorporato, la cucina, quello grande da 32, a 35, va bene, no, ma c'è un po' di arietta oggi, sta bene. Meno male c'è l'arietta, in questa cameretta qui mi sentendo il vento. Stamattina era dalla parte della cameretta mia invece. Adesso sto entrando da questa parte nella cameretta dove sono io. Ah, sembra freschetto, sta bene. Ma la prossima settimana dice ci sarà ancora qualche picco di caldo, questa perturbazione africana, poi speriamo si tolga le balle e arrivi l'estate vera e propria con un po' di maestrali ogni tanto, solo ci sono sempre questi venti di sciocco, cazzo, mamma mia, che vento di merda, troppo caldo. C'è caldo, sì, adesso mi è arrivato il foglio ieri della corso della protezione civile, mi è arrivato a me, Gian Piero e a Giovanna per andare a pulire in campagna. Ci sono le canne giù, solo che non si possono toccare, hanno detto, cazzo. E adesso bisogna che mi metto d'accordo con Giovanna, appena calma un po' questo caldo africano, scendo giù, di mattina presto verso le 5:30, uso il spogliatoio e piano piano fino alle 11, dopodiché prendo il tram e mi risalgo, e se no mi scende qualche infarto, mi scende in campagna. Non è canne come le taglie, il canne non le puoi tagliare il cespugliatore, è canne che vuole la rotaggia per tagliare, faccetta. No, non vogliono tagliarle, hai capito, proprio niente, le canne devono stare lì, devo pulire intorno alle canne e basta, intorno al cannetto. Non vogliono toccare le canne, non capisco perché, cazzo, le ho sempre tagliate, io mi ricordo, tanti anni fa, cioè venivano... veniva Antonio Marconi, col camion se le caricava, se le portava via, perché sono canne grosse, sono capito, belle. Sono scesi e ho detto, quelle dice non dovete toccarle, solo l'erba che c'è, basta, intorno al cannetto e i rufi. Non so. Non esagio, vabbè, comunque si sa pulire, pulisci Antonio che è sempre meglio, ma con questo caldo non stare attenti agli incendi, capito? Almeno questo caldo sì, capito, o magari scende qualcuno con la scusa di cosa, di perché a volte le prime piogge che fanno, come dire, ci sono lumache, passano lì, magari sono con la sigaretta accesa e l'erba è ancora mezzo asciutta, quindi ha fatto il fuoco e c'è buonanotte. vai e fermalo, non c'è manco passaggio per poter, il ponte è crollato, quello che c'era originale, quindi devo passare per forza un'altra parte, a piedi. Marco e Pompio ci possono entrare. Io credo che ho trovato è un casino, poi che a me, mamma, proprio sono pericolose, quando prendo fuoco, cazzo, sono difficili anche a spegnere, capito? Vabbè, comunque stiamo a di pulire, già pulire, già fare, no, noi qua abbiamo già fatto, adesso stiamo aspettando il trattore a fine mese, viene da un'altra passata con l'uso, proprio nei fianchi della strada, tutto. Tutta l'estate rimane pulita. Quello oggi, andate bene, già andate ben bene, ma invece in campagna un casino, capito, ci dici con trattore. Cazzo, ce lo fai passare. L'unica cosa tutta a mano, con il cespugliatore e basta. E speriamo bene. Adesso vediamo un pochettino. Non faccio calmare questo caldo, se no cazzo mi scioglie a me. Che becco le giornate fresche e me la vien meglio. Io lo dico che viene meglio sì, con di pazienza ci vuole, già si calma sto tempo lì, a luglia, sarà tutto, sta appena iniziando l'estate. Sta appena iniziando, sì, tanto ci abbiamo altre bordate di calore, 45, 40, 45, quando sembra. Poi devono arrivare i temporali e poi non so se arriva il nuovo caldo oppure se li mette di nuovo a posto. Così mi ho visto dal telefonino, speriamo bene, una bella passata di acqua. Anche quella di Asimone che rinfresca. Fresca un po'. Abbi è culo. O caldo o freddo, già sta bene dentro casa. Qua c'è il coso, c'ho il coso acceso. Se no muoio caldo, muoio qua. No, io non c'ho niente qua acceso. Tutto spento, c'è un bel freschetto, sta benissimo. È molto fresca sta casa, molto, anche troppo secondo me. Va bene, non è entrato nessuno, è andata lì, non si è sentito. Qua ma è. Non ho sentito nessuno, la pagazione è piazzato 5 minuti fa. E basta, ho sentito. Ogni tanto c'è una portante del sale, evidentemente è roba di propagazione. Sì, l'ho visto anch'io. Ogni tanto c'è qualche straccio di propagazione. Lo farò, stavo spazzolando, c'è una spagnoli. Tutto bene, come sempre. Vabbè. Piano da riuscì, non c'è problema. E andava in sì, a voglia. Eia. E andava. In FM deve essere questo. Mi sento una. Sempre FM sono sti cazzo di spagnoli, tedeschi. Di tutto, di più. Riesce a cambiare il microfono, sto con MBP4 e metto in salata a vedere come esce. Aspetta 2 minuti. Ecco qua, questo è salata. Meglio piccolo dell'altro. O più forte mi sembra, più acuti c'hai. Questo è molto più forte, sì. Questo va benissimo per questa apparecchio qua, per il colore scontro via e per il 2009 che c'ho. Voglia che pompa la saletta, mi messo la mattina nuova ieri perché sono andato a schiacciare il cazzo e tu le devo sacere più giù, no, mi messo la mattina a scarica. Gappa, no, io sto andando col 3 più 3, 3 più 3 B, va bene. benissimo, lascio stare questa. C'ho una terza delta, c'ho più 4, più 5, sono dentro l'armadio il microfono. Ne ho il microfono di tavola, ma non ho tenuta. Sto usando sempre questo, già va bene. A voglia che va bene. Giallo, credo, giallo. E quindi non si andrà a parte stasera? No, non sono andato da sua parte. Adesso perché li sta venendo così? Stava camminando da solo, ha visto come l'ho toccato appena appena col dito, si è rimesso un po' a posto. Stava bollendo, devo dire, stava bollendo, scalda troppo. Lo chassis si sta scaldando del frequenzimetro. E non è normale questa storia. Evidentemente c'è lo stabilizzatore che si sta scaldando. E ci rimetto un coso dissipatore e bongo. E così non romperci le balle. No, ma non deve scaldare. Si deve scaldare. C'è qualcosa che non va, controllo bene. Adesso non l'ha più fatto. Si è messo a camminare, se quindi 28-30. Come ho toccato col dito. La scatta adesso non lo sta più facendo bene. Nulla, adesso niente. Beh, non esagio, questo è di una perfezione, sia il frequenzimetro, tutto perfetto. Gli avevano messo questi cazzo di LED, bianchi, forti, cazzo, mi rendi cieco questi smitter. Ne ero tolti, sono andato a fusare, ho preso le cose sue e ho messo una palina sue originali. Cazzo, sta mania che vanno i buoni LED, ma li ho presi. I LED si illuminano parecchio, in confronto alla lampadina sua originale che rimane appena basta. Lo già illuminano. Io ci avevo messo i LED bianchi nel primo che ha avuto. Il Saturneco. Ho capito, una giallina, certo, più meno forte, ma è meglio. Cazzo, ma lo rende Diego. Minchia, l'ho tolto, gli ho messo i suoi originali. I suoi fuori, noi sono i fuori dello smitter, basta, brutto, rimane così, ma oggi devi fare un pizzlete, quando si fulmina si cambia, ma non manca una tacciga. Avanti Beck, che è parito, anche io ho sentito sto Beck, avanti, c'è cura Repubblica, che quasi c'è, non ho capito, da dove parli, da Creta, time out. No, speak English, no speak English. Italiano e basta. No, vieni con quel pane. Qua se non c'è il pane non mangi manco il panino, guarda. Qualche repubblica lì vicino a poi deve essere sensata. Mi sembra di sentire Repubblica Ceca, ma se non parla italiano io cieco non parlo io. Sembra che non sia la Repubblica Ceca. Sarà la Repubblica Ceca, però se parla italiano va bene, io inglese non ne capisco. Non parliamo inglese, parliamo su 5. Capito Radio 6, non ho capito. Si ce l'aveva con noi, non giaccio, vabbè. No, non penso ce l'abbia con noi, sta parlando da solo con un altro. Quindi già è... Siamo tutti da solo, già mi è Napoli. Gli si vuole fare vedere, non vuole fare vedere, se no. Tacci. Allora. Ui. Manco un calcio su questo canale, tutti tutti al mare sono, a prendersi la... il fresco. No, io non ci sono andato, ci avevo detto a pranzo. È andata mia figlia, un po' pranzo. Ma schiaccio, quasi se meno un quarto, se meno 10. Adesso se ne salivo verso le 7:30. No, non ha giurato, lui, grazie, c'è nel tempo andare al mare, inizia andare al mare adesso che è agosto. No, ormai ho giurato di aprire, mi sono fatte le vespe che... e anche installazioni, quindi figurati. Io le vespe più che altro le temo perché quando le metto la crema per quelle macchie, se c'è vaselina in mezzo, è come metterci la bistecca sopra la piastra elettrica, in pietra. Ah beh, è così, gappa gappa. E sti guy. Adesso qualcosa non mi ha più fatto, adesso è fermo, fisso, non fa né oscillazioni né nulla, solo per un secondo me l'ha fatto quel difetto. Deve, adesso lascio tutta la sera acceso, così se fa qualche difetto glielo controllo subito. Sembra che stia andando bene, trasmissione perfetta, vabbè che c'è. Grazie. Il sole sta toccando la cosa. Mi sa che gli metto il cover. Aspetta un attimo, gli metto il cover di sopra, gli metto. Così scalda di meno. Dice, sta pigliando il sole in pieno del paracchino. Via, no, chiudi la tua entrata dei difetti, appoggiaglio senza mettere le viti. Mettiglielo sopra e vedi se ti fa l'effetto del frequenzimetro. E infatti faccio così adesso, aspetta che rimetto il cover così scalda di meno. E io sono qua, spero un attimo, va bene. Junior! Come è? Oggi molto fresco, non ha sudato per niente, nulla. Oh, aspetta martedì e mercoledì, buonasera. Io devo mettermi le cuffie per regolarmi l'eco, ma... Boh, non spiego lo leggo. Andiamo bene così com'è, lascialo stare. Aspetta, passo col Galaxy. Eia. Ecco qua. Eia. Allora, volevo usare le cuffie per il baracchino, provare a usarle, però ho notato che la quasi totalità di questi baracchini moderni, col volume minimo, ha un volume troppo alto per le cuffie. Proprio va bene per l'altoparlante esterno, però come cuffia non va bene, tu lo metti al minimo, cioè o è zero, poi c'è quello scattino in più ed è già troppo forte, ti fa sordo. E quindi mi sa che le cuffie me le attacco al QSO. Ma del baracchino stai dicendo? Ah, quando metti dietro un baracchino per ascoltarti è un casino, è un bel forte, e va bene, no, comunque stai uscendo bene, alla grande. No, anche per le altre stazioni, cioè per ascoltare normalmente, però è troppo forte l'audio. Capito, c'è qua e a scatti, no? Tu muovi il potenziometro e vedi, o uno di volume non senti nulla, lo metti a due, siccome lo metti a 2 è già troppo forte. Ed è così quasi tutti questi baracchini moderni. L'unico che si salva è, come sempre, il 3009. Il 3009 è tanti, è quelli più vecchi di un tempo, dai. È come se avessero già una resistenza che limita l'audio nelle cuffie, comunque. Se no sono costretto a mettere quelle cuffie che hanno il regolatore di volume, capito, con la rotellina. Io c'ho quella col cavo che c'è la rotellina per abbassare il volume, certo che sì. Ah, e bisogna prendere quelle. Perché secondo chi ascolti ti fa di gioco. No, il Galaxy, metto le cuffie, la verità è perfetto. No, non c'è problema. Però io ho quelle col cavo che c'ha il volume regolabile, capito? Quindi se è vero che è troppo alto, abbasso leggermente il volume della cuffia in ingresso senza toccare il volume del baracchino. Sì, esatto. Io avevo queste Sony con l'archetto, perché a me quelle che entrano dentro l'orecchio non le tollero, mi danno fastidio, alla fine mi fanno anche, alla lunga mi infiammano un po' la, è come un'allergia a me. Però non hanno la regolazione del volume, a meno che non mi faccia una scatolina che metti tra baracchino e cuffie, mi basta mettere una resistenza, che ne so, qualcosa la troverò. Bene, questo è il 9009, però io credo di essere, siccome stavo cercando di chiamare in propagazione, credo di essere attaccato, infatti, aspetta. Ecco, adesso sono 3 watt modulati 4, fischiando. Va bene, ho sentito quel pomponio, stava testando un apparecchio prima, mentre mangiavo. Ma no, non eri entrato, no? No, vabbè, io sono uscito fuori a mattina a fare una sigaretta, diciamo, il freschetto. E si è allontanato, poi stavo sfarfando, ho visto nel 20 c'è Gianni, non so con chi sta parlando perché non ho capito chi è, tutto a fischi, tutto a rumore, boh, non so chi è, comunque. Era lì sul 20 e poi niente, poi non ho sentito più nessuno. Nel pomeriggio c'erano anche stazioni in AM, tipo sul 16, sul 15, e stava parlando questo con Nuoro, lui era sul mare a Catanzaro, tipo, se non capito male era Catanzaro, o zona, stava parlando con uno di Nuoro, l'ho breccato più volte, chiamando e questo ha detto Catanzaro, ha detto no lascia perdere i break, ha capito, voleva farsi questo ufficio con Nuoro, ha detto vabbè, vedetevi là in culo. Ma vabbè, dobbiamo fare anche noi così a volte, capito, quando ci sentiamo andare a cagare, c'è un bel di questa gente, ma lo fanno anche in HF, ma mi è capitato anche in HF in 10 metri, ma gli sono obbligati a farti entrare, capito, però fanno finta di non sentirti. Non è tipo se io lascia perdere assolutamente perché sono denuncio. Però fanno finta di non sentirti e non ti fanno entrare, capito? Quando vogliono fare questo tra di loro. Vabbè, a futtidirmi. Non per il vecchio nuda. Sì. Che palle, però io praticamente sono sempre a casa perché mamma non è autosufficiente. E guarda che non passano più le serate, poi le domeniche non te ne dico niente. Sì, guarda, io mi sono riposato perché c'avevo niente a pranzo, ce ne sono andati al mare dopo pranzo, verso le 3:30, 4, sono ancora tutti al mare, sono le 6:30, rientrano tutti alle 7:30, non so, le 8, dando voli, non ce n'è problema. E niente, poi si fa un'altra bella cena, tutto quello che è avanzato, insomma, e via, anche se rimani a casa, è perché tu sei rinchiuso in 4 mura, hai capito, io essendo qua in campagna, il tempo passa, io stamattina sono uscito, sono sceso al prisbarmi, ho preso il caffè, le sigarette, ho fatto 2 chiacchiere con i soliti amici domenicali, e niente, poi mi sono fatto un girettino in moto, poi sono rientrato, ho acceso il fuoco, sono allestito, ho fatto, sono arrivati tutti gli amici, le cose, insomma l'unica passata, mancato una conoscenza in appartamento che non esci, ti viene la malinconia. Esatto. E più che sbattere la testa a leggere qualcosa, anche se l'ha vista, non mi assiste più. Lo sai, anche leggere libri sta diventando un problema. Male, siamo andendi. perché devo allontanare il libro, capito? Lo devo allontanare un bel. Però allontanandolo poi i caratteri diventano piccoli, metto a fuoco ma i caratteri sono piccoli. Allora ho preso degli occhiali per leggere da vicino, addirittura c'erano due led piccoli laterali per illuminare il libro e devo usare queste cose qua, appena immagini. In accende, per carità. Ma li hai presi quegli occhiali che fanno la pubblicità, la TV che c'ha, ma sono le led nelle stanghette, che praticamente sono occhiali per ingrandire, ma dici che funzionano, ho visto che costano però solo 40 euro. No, dal cinese, da qualche cinese me l'avevano comprati, adesso non mi ricordo dove, perché se li trovi prendili, pochi, sotto i 10 euro, qua in TV sono dei ladri, le stesse cose, le media shopping le trovi ai cinesi a prezzi più popolari. Diciamo che vanno bene anche quando devi saldare. Perché ti permettono di ravvicinare l'immagine a 20 cm, capito? E quindi essendo a 20 cm solo vedi i caratteri del libro più grandi, vedi la roba a saldare più in grande, capito? Aiuta molto, molto molto molto. E poi anch'io sto entrando poco perché c'è caldo, non c'è voglia di stare, parla, e poi bisogna trovare l'argomento anche di sapere di cosa parlare, capito? Ce n'è andato al 9. C'è caro, secondo me grave di occasione. Aspetta Claudio, che ce n'è andato al 9 il baracchino mentre parlavo. Cosa mi hai detto? Ma che non fa? Se c'è caro, c'è caro, cosa fa? Non ti capisco, sei troppo amplificato. No, c'è la volta l'aria accesa. A 5:25 stanno parlando. Già mi capisci. Ho detto, se c'è troppo caldo, non c'è niente da fare. Anzi, questo è niente, aspetta, già è arrivato il bollettino allerta gialla da parte del solito conoscente. Allerta gialla perché rischio incendi, no? Come arriva il caldo, se c'è vento poi è ancora più pericoloso. E per la temperatura proprio il picco sarà martedì, forse mercoledì. Per carità, guarda. Adesso mi riempio la vasca di acqua, metto il tappo e mi butto dentro. E mi addormento. Lo so. È un casino. Sì, infatti ho sentito anch'io la prossima settimana, penso sia o martedì o mercoledì, c'è un picco di 38-40 gradi, poi cala di nuovo, non lo so. Sì, che poi questi 38 gradi non corrispondono a me a realtà, dovrebbero essere 34, se sono 38 poveri noi. Allora proprio mi riempio la vasca, modulo da lì, da dentro la vasca, mi porto la prolunga. Sei attento all'attacco della corrente, mettilo fuori dalla vasca, se no ti si brucia il cornicione. Cresce il cornicione, oi. Quello va lucidato, c'ha ossido, calcare, capito, ci vuole il via Calli. Mamma mia, mamma di turchi. Ma se leggi RC già funziona lo stesso dopo. Sto usando il 9009, microfono di serie, niente di più, niente di meno, 3 watt normali, 4 modulati. Ah no, però c'è il filtro, quindi in realtà ne escono 2 di watt normali. È tutto strano sto filtro, ma io so perché l'ho messo, perché il cavo 213 è rigido, mi ha già rovinato un baracchino, praticamente facendo leva ha rotto il famoso circuitino del 3009, l'anti-TVI, che è una scatolina di alluminio che è tutta saldata, elettrosaldata, saldata all'interno, non capito come abbiano fatto. E quindi uso quello anche come il cavo sottile perché è più flessibile. E in più questo filtro fa il suo lavoro, meglio averlo che non averlo. Pazienza. Ehi, già funziona. Vabbè, questi filtri, queste cose, questo è il shuttle, funziona, l'NBN, ho visto quando ci sono rumori, praticamente già li toglie. Sì, pochino. Ho visto quegli attenuatori di QRM di cui mi aveva parlato Massimiliano, io non sapevo neanche che esistevano. E sono come degli accordatori, devi sempre, cambi frequenza, devi sempre accordare per eliminare il QRM. È una cosa un po' impegnativa, utile, ma una rottura di balle mi sembra. Vediamo se c'è sul 10 qualcuno che vuole entrare, avanti. Tutti al mare, tutti al mare. Ma poi se c'è qualcuno sul 20, ma no, sinceramente non ho capito con chi sta parlando, non l'ho riconosciuto. Io non mi posso muovere perché ho dovuto mettere il lock, ho dovuto bloccare sul 10 perché mentre parlo qua c'è sempre quel difetto strano, se ne va un canale più giù, come prima, l'importante è se ne va un canale sotto, non so se sia il microfono oppure l'apparato, e quindi mettendo il lock almeno non si muove da qua. Non mi metto il lock. Siamo immunizzati, va bene così, aspetta, faccio uscire il cane. Sì, vado a bere un attimo, c'ho l'acqua fresca. Test 1, 2, 3, prova. Ehi, ehi, spalle sto baracchino, un poco scaldami. Cioè, lo sto usando con 4 watt e bullendi. Ci sei ancora? C'è scampo, porca miseria, oh. E queste scariche, vai, non ammala, vai. Ma ci sei tu, Marco? Queste scariche. Stavo provando l'altro mic, però vedo scarichette. Da dove arrivano? Dallo spezzone? Dal microfono? Non si sa. Com'è la timbrica rispetto a prima? Migliore o peggiore? No, non è una timbrica, solo c'erano queste scariche. Ora, guarda, se rimango fermo, forse non ci sono. Com'è la timbrica rispetto all'altro mic? È buona, ti ho detto. Va bene, simile all'altra. Quindi praticamente a livello di timbrica, vediamo un po', credo che sia lo spezzone, e vabbè, qua non fa niente, cappa, vabbè, non entra nessuno, io passo all'ascolto, poi vediamo, così vedo chi c'è sul 20. Che cosa? Non entra nessuno qua, mi sa che vado a sentire chi c'è sul 20, passa l'ascolto. Oh, mi sembra Gianni facendo di Exibo Catania, cioè, non mi interessa, di Buni a Bolti a fare dei collegamenti, ma passo con HF, vai. Ci sentiamo Marco, ciao. Ho sentito Gianni, Luca credo, però ha una voce molto nasale, il poco che ho sentito. Va bene, insomma, monitor nei bussubuni dal vivo, lo metto e fischia, ma non posso proprio ascoltarmi, cioè il microfono a zero, è quasi a zero il mic, che cavolo, però mi sembra il PTP questo, boh, mi rovedi. Che palle, niente è perfetto, dai. Ora vediamo un po', lontano tutto il braccio, così a metà spacchiamo tutto qua, mettiamo tutto a manetta, senti come pompa il pippero, tutti morti. Vediamo, prova, eccolo qua, ora. 1, 2, 3, prova, eccolo qua. Però se scariche, porca paletta. Ciao, ma ciao. Prova, prova 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3, prova. Abbiamo provato in due. Ho detto, ma non è un microfono quello nuovo, questo che sta uscendo a scarica. Aspetta, Claudio, avevo il volume a zero. Che è successo? Niente, ho detto, va bene lo stesso. Ho detto, non è quello nuovo il microfono, questo. Sì, questo sì. Però non ho capito se l'adattatore balla un po', vabbè non fa niente, lo fa all'inizio, poi sparisce. Allora mi sto ascoltando in cuffie, questo baracchinetto Taylor permette di ascoltare con volume anche basso. E sono col microfono proprio come se fosse quasi un mic normale, credo, boh. La timbrica, vabbè, non è male, ma l'autoascolto non è mai perfetto, dai. Casino. Oh già. Ah, certo, me l'ho chiesto per mettere la schiena cold e farlo cold in continente, però non qua, da Piero Marconi, quanto mi ha chiesto per il Galaxy a terminarlo praticamente, dai. Cazzo, 200 euro. Perfetto, lo posso. Allora, tomato il pazzo. Allora, voglio 200 euro per mettere una scheda a corte dentro e fare due collegamenti. Ma la scheda a corte, ma che cazzo costa la scheda? Costa 30 euro. Bravo, là sarò così, che andava così. Ma cosa mi mette a fare questa scheda, ecco, boh. Si trattava di prima, ma guarda, andare in più. Sono solo i camionisti, boh. Lascialo così, che già va bene così. Sì, tranquillo, no ci spendo 200 euro, ma stai scherzando. Era giusto così, qualche volta mi capita andare su 45, c'è Massimiliano, Daniele, a fare un po' con la burro, tu ce l'hai, ti dici sulla refretta, perché chiaramente con la refrettina passa a corte, abbassi la refrettina e rimane normale, no? Capito? Faccio stare così originale. Ma più che bene, non bene, ma più che bene, c'è una radio favolosa, che è una recezione, una trasmissione bella, va bene così. Ok, adesso. Non stai a toccare, magari non tocchi e ti dà problemi, no. Ma poi già che non ricordi quando si pagavano quei baracchinetti, 450 euro, 400 euro. Adesso li vendono su internet, fatti già con le coccolte e tutto, 200, 250 euro te li vendono. Sì, l'ho visto anch'io. Sì, ma questo non c'è niente da fare, amico, è già tutto predisposto, capito? Perché ci sono i fili dell'eco suo, quindi usi quindi, la potenza è già regolabile, non devi fare niente, devi solo collegare la scheda e boh, ma lascia perdere. Va bene, lasciamo stare così, già va bene, per fare due chiacchiere ce n'è pari in bocca, ma non è tocca la radio, è eccezionale, quindi lascia stare così. Vai, Marcolino Condor, noto da Tapignara. Cappa, senti come pompa il pippero. E lo sai? Questo è il microfono nuovo sul 9009, distanza tutto il braccio. Guarda, così tutto il braccio, si sente tutto l'effetto camera, così da vicino, però si sente anche la ventolina del linaretto, guarda. Porca paletta, quanto pompa. Sono bene quei microfoni, però devo dire una cosa. Gianni, tu stai usando il 3009? No, io sto usando RAM, sto usando il COM. Però Marco, allora Gianni, col 3009, con quello stesso microfono tuo, c'ha una modulazione con tonalità che mi piace di più, nel senso che c'hai medio-bassi più corretti, tu c'hai troppo acuti, non so perché. Forse perché quella di Gianni la radio è normale, è originale, tu invece l'hai tirato l'LC. Senza offesa, a me piace più quella di Gianni col microfono normale, 3000, col microfono uguale al tuo 3009. C'ha una bellissima radio, bella amplificata, però c'ha i medio bassi più corretti dei tuoi, tu c'hai troppi acuti. Questo è il 9009, sai cos'è? Tutte queste radio, i CRT, Presidente, Superstar, hanno modulatori un po' diversi e quindi in qualcuno è corretto il tono, in qualcuno è più acuto, in qualcuno addirittura è più cupo anche. Adesso ho messo tutto a manetta, distante, non tutto il braccio, dai. Si sente la TV, un casino, Porca paletta, troppo comunque, a me non piace così, dai, ci abbasso. Ma si sente anche un rumore, boh, di motore, non so cos'è la cazzo sia, boh, vai già. Ehi, a parlare sotto il foro. Sì, vabbè, io l'ho toccato, un 3009 che c'ho io, e come mi è arrivato l'ho lasciato. C'ha ancora il nylon, quello dei burdi, Marco, quello nero. Non gliel'ho ancora tolto. No, ma è bella la tua modulazione con il 3009 già. Mi piace più perché, te l'ho detto, te l'ho spiegato, c'ha le tonalità più corpose, come i medio bassi, come piace a me. Troppi acuti non va bene. Marco sicuramente, come ha tirato le LC, spinge troppo e le sfalsa la modulazione. La tua è un po' più precisa, più bella. Ecco qua, sì. Vediamo se innesca con l'ineretto. No, non innesca il mic. Ancora un po'. Sembra che vada tutto bene. Si sente, sì, la ventolina del lineare. Gianni qua lo sente invece molto rimbombante. Tutto, cioè non tutto, cupo. Troppo cupo per le mie orecchie. E poi quell'eco già, l'eco che rovina tutto. E vabbè, mi piace l'eco, Marco, già per ti dico. L'ho sempre avuto. Gianni ha sempre avuto l'eco. Quello che piaceva a me era il gemello di questo, con l'eco leggermente. Cosa usavi il, come si chiama, il, quel microfono che usavi sul Galaxy, con l'eco cos'era? L'eco Master Plus è questo qua, è rimbombato perché c'è l'effetto camera e io sto parlando da molto lontano, sono con il carto, sdraiato sul letto perché ho la gamba che mi fa male e purtroppo devo stare sdraiato o seduto, quindi non posso stare più a chi mi va di male. E così sono vicino al microfono. No, ma è questione di baracchino, Marco, che io col Galaxy lo sento una bomba. Radio bella, fortissima, rimbombante, però è molto chiara. Evidentemente la ricezione di Galaxy è superiore a quella lì. Correggo. C'era l'iCut inserito per la banda laterale, l'iCut è quello che taglia, che dà toni più bassi, l'ho tolto e in effetti adesso è più bilanciato, sì, comunque è molto molto forte, pure troppo diciamo la modulazione già, e poi vabbè l'eco è questione di gusti. Bene, riprendete, che vada bene. Cos'è alta questo l'eco, lo abbassa? No, sono così già che va bene. Poi ho parlato che confusi, romani di tunda. È questione di gusti, appunto, ognuno ha i suoi gusti, le sue orecchie, il suo modo di pensare. A me mi è sempre piaciuto l'eco, un pochino, non tanto. A me non piace tanto l'eco, però appena, anche cantando me lo metto. Sì, ma devo dire che tu, a differenza di tanti altri, l'hai sempre avuto leggero, quest'eco, che non ha mai dato fastidio, perlomeno a me non ha mai dato nessun fastidio, non ti ho mai detto bassa, fai, se è troppo alto che magari hai toccato qualcosa, te lo dico, ma lo correggi subito, va bene, io ti ho conosciuto sempre con l'eco, però mi piaceva la modulazione che avevi, forse con Saturn Echo, avevi un microfono, cos'era, l'M300? No, c'avevo questo, l'Echo Master Plus, questo che sto usando con questo apparecchio qua c'avevo. Il microfono l'ho tenuto, mica l'ho venduto, ce l'ho ancora. Però c'era un periodo che avevi un microfono, cos'era? DM1000 forse, che usavi anche col Galaxy. DM1000, sì, DM1000. Usciva molto bello, c'era un bel abbinamento, molto bello, era un ecco leggero, però andava di lusso. Sono qua, Ma adesso attacchiamo un po' il 2009. Fammi sentire, vuoi avere la differenza col Galaxy, avere tra te e Marco con lo stesso microfono, la stessa radio, dove la differenza, perché mi sembra che avete la tonalità diversa, uno c'ha la tonalità acuta, l'altro c'ha la tonalità medio-bassa, vediamo un po'. Ma dipende anche dalla voce nostra qua. Cazzo tu, non è che c'è la voce così debole, non già di fai andare i microfoni, prova a vedere. Brecco. Sì, avanti Brecche. Cordialità 73 qua da Rosario del Robentino. Non ho capito, cordialità 73 da chi? Rosario Robentino, vicino a Novara. Ah, ciao Rosario, buonasera, provincia di Novara, Claudio Sparviero da Sassari, compagnia di Gianni Doppio Rum e Marco Condor. Vediamo un po' se Marco vuole andare per terra. E Marco? Ben sentito l'amico di Novara, Marco Sassari Sardegna, arrivi discretamente bene, fammi un passaggio, vediamo il segnale. Ok, grazie, un cordiale saluto qua. 8. Novara, provincia, provincia di Novara, Piemonte. K, sì, arrivi un segnale di 8, segnale di 8, una radio, ti posso dare un 4 perché c'è una lieve saturazione. Ecco, vedi un po' le mie condizioni, come sto uscendo, sto usando una 5 ottavi e massimo una cinquantina di watt reali. Vedi un po' il microfono amplificato KPO, vieni avanti la micro Novara per Sassari. No, ti copio bene, io direi radio 8, sì, 7-8. 7-8 hai detto Rosario, Santiago 8, Radio 5 per Marco? Sì, confermo. Sì, sì, anche qua arrivi S8, S9, Radio 5, però come ha detto Marco, con una leggera strozzatura, evidentemente stai dando troppo ingresso sull'amplificatore. Adesso vediamo un po' se è rientrato Gianni Doppio Rum e te lo passo avanti. Vai Gianni. Cappa, dai, io ho messo il 3009 adesso, saluto l'amico che è entrato, non so, mi sembra da Novara, la stazione Doppio Rum della città di Sassari, avanti di nuovo l'amico. Cordialità 73 anche a te, sì, adesso ho abbassato un pochino, spero di non perdere segnale. No, hai aumentato il segnale Rosario, se ti è perduto hai aumentato. Ok, bene, allora mantengo questa impostazione, grazie. Gianni, chiedi il segnale. Aspetta, mi dai un controllo di segnale, l'amico di Novara? Già, grazie invece di... ce l'avevi già attaccato, l'hai spento, com'è stato lì? Perché volevo avere il segnale senza nulla. Scappa, me lo dai un controllo, l'amico di Novara, di segnale radio, grazie. Rosario, hai sentito Gianni Doppio Rum da Sassari? Sì, ho copiato, ma non completamente. Radio eccellente tutte e due, vi posso dare un Santiago 9, la radio 5 tutte e due, veramente silenzio, è una vara, qui poi sei KD6 che vi risponde. Ciao Filippo. Ciao Filippo, buonasera, ben ascoltato, e cordialità, no, era Marco con Gianni che chiedevano il controllo, io sono Claudio, comunque anche per te segnale 9, radio 5, vai Marco per Filippo. Io ho difficoltà un po' a ascoltarli, La propagazione sale e scende, c'è un discreto